Ma è finito, bella bene. Cosa vuoi che ti prepari il brodino di mammo? È finito di rompere i coglioni, eh? Pop woman, vuoi che ti faccio schiatta, eh? Adesso vengo lì e ti suono il campanello con lo stecchino. Ehi, tutto il giorno suonando, sta così impari. Ma con la pittella? E allora? Vai, vai, sì, un po' comane tu. Mi già c'ho la scatola degli stecchini, adesso vengo lì e metto lo stecchino nel tuo campanello, così impari. E vieni, vieni, che c'è Piombini, vieni, sali, vieni. Vieni. Ma tu non mi conosci, mica c'ho il tiralattico a portella, io mi ha dato i grilli. Aspetta telefono. E' bene Natali. Tu dimmi. Nuda te toccato. Tu si sei impacciuti. Mannaggia li vecchi d'indica. Non dame fusi, eh? No. Non va bene. No. Mi si dispiace, ma non andava. Sono cose che non vanno bene. Vuoi arrivare a sa che cosa? Poi tu dividivi con me, con la brittella. Beh, a proposito di brittella devo fare una cosa, ma mi sono lamentato. Servono vittime, sentimi. Ma che l'ha tappato, mia? Bella, allora, fate lì, ci metto questi due soldini. Siamo arrivati due da 400 euro, i monetti. A due, a due, a tre, a tre, tipo zinco, tutto. E la data piena. Come sai che ha fatto prima mi diciamo? E poi devo assodare a capo, no? Adesso mi faccio. Ecco qua. Capito Natale? Così è. Vai che si dà l'idea, spostati. Cioè, ma la cosa la sistemare. Ma qui sono pizzato, oggi mi chiama. E niente. E tu sei uscito Natale? Stamattina a portare il cane da sono uscito, mia moglie non si sente bene, quindi l'ho portato io là. Anche io mi poco posso salitelo in un bar da amici. Ma è uscita la cosa, è strano. E niente, ho pranzato lì, ho mangiato un panino, sono bevuto una birretta. Un paio di chiacchiere con degli amici, e vado a casa, già legato a Zea, adesso devo riuscire con l'appuntamento con un'amica, a prendere un caffè, e poi me ne ritorno a casa. E ragazzi, voi qua. E infatti, stamattina stavo parlando con Luca Flipper, e niente. Sto giusto un di una radio, adesso vediamo un po' se riesco a sistemarla. Cioè, sistemata è sistemata, ma vediamo un po' se riesco a metterla come Dio comanda. Non so se non andava. Casino, si è rotto praticamente il tastino con quello che è per levarlo. Ce l'ho incollato, vediamo un po' se riesco a farlo andare. Esito, mi rimane così. Tutto caldo ha fatto oggi, eh. Bella giornata. Poi adesso inizia la giornata bella. Iniziano. Ecco qua. Sì, quasi ci siamo. E ci siamo mettuti tutte le zitti, ma non mi mancano anche una, una no, una no. Adesso mi aggazzi questa cosa. Ma stai da. È così, è così. Infatti. Quello è poco, ma le tue non ci puoi fare nulla. E beh, no che no. Speriamo che faccia una bella giornata, almeno come mi passa questo affare alla gola. Me ne vado a pescare un po'. Tu sei diabetico, ma non hai il tuo miele, perché lo fa un signore, ma... Cazzo, c'ho una gola messa male io. Adesso già mi sto riprendendo, ma mal di gola non ne ho più. Ho fatto due cicli di... Come si dice? Mi sono fatto... colazione, cena, un paio di volte, latte e miele, non mi ha fatto gravare, dite, ma miele però, no, mondezza, miele serio, praticamente mezzo chilo 10 euro. Ehi, già lo so, ma io sono diabetico, so, ho preso quello sciroppo senza zucchero, là, ma già mi sta passando. Ho capito. Sono io che non ci sono uscito a pescare, perché sto facendo un po' di freddo. L'altro giorno sono sceso con mia moglie e si è ammalata, vedi? E non ce n'era né freddo né nulla. Era una bella giornata, eppure è pizzicata muruetta. E Natalino, non è che si può fidare ancora, poi sono animale, lì te la di più, la riaffredda. Magari a poco poco pizzicata, ha fottita ancora di più. Aspetta un attimino, arrivo subito. Ehi. Quando aumenti, guarda così, guarda così, appena appena, guarda qui aumento sempre di più, sempre di più, guarda adesso lo rimetto appena appena, guarda così, dovrebbe andare bene. No, così non è niente ancora, guarda così, aumenta ancora, lascia la portante, però guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E appena appena di reverbero, ma va bene così, perché poi ripete troppo. Così comunque sono comprensibile. Sì. Guarda se aumento il mic again. Innesca, stai innescando? Sì, innesca, guarda. Si innesca di più. Un po' così. Così va bene, sei forte, chiaro, limpido, la tua voce. Non sai quanto è amplifica. Ok, devo tenerlo più o meno a poco più di metà, dai. Non posso, se lo metto già a tre quarti innesca. Sì. sì. Comunque è chiaro, una radio 5. Sì, ma devi parlare piano, se no te lo ripeti troppo. Parla piano, perché se no poi lo ripeti troppo. Devo parlare piano, io non sono abituato a parlare piano. Tu sei velocista. Sì, a volte mi mangio anche le parole, infatti sono una pancia enorme. Guarda. Sei veloce parlando, è vero. Sì, ripeto, a volte mi mangio anche le parole. Vabbè, ognuno ha le sue cose, ma se si può migliorare, capito? Se riesci a parlare tranquillamente, dici benissimo. Bisogna parlare come fanno i camionisti che parlano piano piano. A te male con l'altro microfono, non ne ha radio. Addirittura. Va molto bene questo microfono, non lo senti come va, con questo male va. No, fammi dire, oggi è stato bene. Cavolo, va benissimo. Qualcun altro l'ha preso poi? No, nessun altro. Doveva prendere Franco, poi non ne ha preso. Natalino, lo dovevo ordinare, poi non so come ci è andata, non ne hanno preso. Te l'ho chiesto, ma no, non ne abbiamo ordinato. Addirittura mi hanno inviato anche il 10% di sconto ulteriore, volendo. Dobbiamo prendere un altro, un ulteriore 10% di sconto, però già va bene così, dai. E quanto farebbe? Cioè un altro euro in meno praticamente, invece che altro che 15 ti veniva a 14, più o meno, dai, un euro e 50 in meno. Già va bene, dai. Poi che non ne faccio nulla adesso, perché ne ho un altro anche, c'ho un Proxel, oltre a questi qui c'ho un Proxel in più. Non ne faccio nulla, dai. Ho eliminato quelli che non mi servivano, li ho venduti, il Turner e poi ho venduto anche il Sadelta, che un po' me ne sono pentito, dai. Il Sadelta me ne sono pentito un po' perché era buono, era un bel microfono. E ormai è fatto, dai. Io ti la piangere, sulla Bernardo. Vabbè, tanto qua ne avevo 1000 di microfoni, cosa te li fai? Poi ho venduti bene. Sì, ma sento propagazione, no? Sull'undice. C'è propagazione, deve essere, un po' di disturbo c'è. Allora Franco, già vi racconti di bello. Guarda, non ce la faccio più, non sempre, infatti vedi, non sto neanche accendendo. Tra i miei genitori e lavoro, non ho più tempo di niente. La notte sto dormendo in campagna. Come mai non stanno bene? Ah, che ci ha mollato la debalanza, galanto. Rimangono mai dentro e poi ce ne vanno. Chiamami al telefono se vuoi. Attenzione, dici, c'è qualcuno? C'era una portante, un po' di musica, no, faceva la televisione. Ma magari stava provando stazionario, roba del genere, non vuole entrare. Vabbè, andate, Yam. Avanti, binario 10. C'è più nessuno, no. E abbiamo voluto il nostro saluto di fusura, che tagliati per ascolto. Dici? E però sono vergognosi, dai. Hanno il micropanico, come si diceva prima. No, meglio di così, non ti vede nessuno. No, ma solitamente già c'è la gente. Stasera non so cosa sia successo. Ti ho fatto scappare tutti io, là. No, non è quello. O c'è qualche cosa, ma a partite ci sono in giro. Ieri c'era la Champions, ci sarà ancora il premio, quello blu. E a Canale 5 ho visto che spesso danno le partite adesso la sera. Io c'era il Milan. Ma si sente un po' di propagazione, lo sì? Sì, tanto addirittura mi stanno anche un po' leggermente sbatterando. K, sì, si sente, dai. E quindi, fra, per il lavoro tutto ok? Ma sì, dai, non mi posso lamentare, aspetta. Se no facciamo turni un po' lunghi, che manca personale, non c'è più nessuno. Voi con questi tipi di lavoro siamo solo in tre che possiamo farlo, e quindi di cui uno adesso ne è venuto anche a mancare, nel senso che no, momentaneamente non è disponibile, c'è da un'altra parte, quindi siamo in due adesso. E non ne prendono altri, infatti è quello. adesso per concorso si entra lì. E allora, le ultime che hanno preso erano delle ex guardia barriere, cioè quelli che sono nei punteggi a livello, capito? E poi dopo un po' li passano a ruolo. Diciamo che una specie di vivaio sta diventando. Beh, io avevo un amico che stava al passaggio a livello lì a Santa Maria di Pisa, lì quel passaggio a livello lì, e praticamente adesso è nella metropolitana. Allora lo conosco sicuramente. Sì, Luciano, ciao. Ah sì, ma non è più nella metropolitana, adesso è un altro lavoro, sempre solo in azienda nostra. Ma conosci anche Leonardo Carlo? Sì, sì, è vero, anche lui lavora nei 2 e 3. Sì. E beh, Leonardo, coia. Una volta l'ho salvato e stava negando, per carità. Stavo tornando a fare pesca sul bocca, visto che stava negando, ci ho buttato pinne, fucile, tutto quanto. E l'ho tirato su, poi mia madre si stava lamentando, mia madre è una grossa nuotatrice, ma avendo i dolori non si poteva fare più il bagno. E quando ho visto così, che io ce l'avevo per il collo, stavo prendendo, portando su, si è tuffata e l'ha preso, perché abitava vicino a casa, Leonardo, eravamo amici. Non lo sapevo. Comunque, ormai c'è un caro, perché no, più 30 anni, 38 anni, no, lo so, 34 anni, stai nascando, cara. Ho acceso, adesso no. Stai nascando un bel. Anche adesso? No, adesso no. No, perché ho acceso la ventola del trasformatore. E allora fa rientro. Boh, così va. Mi accorgo anche se uso la mano destra. È peggio. Così va bene, va bene. Così c'è anche più forte il radio, boh. Così sto usando la mano sinistra. Se uso la destra, forse perché avvolgo un po' troppo il microfono. Invece così è più. Siamo in punta di vista, dai. È una cosa strana, guarda. Lettere è una cosa strana, trovi, ci sono dei difetti. E io lo stesso, il parlare più tre l'altro, perché se lo mettevo sulla gamba, andava bene. Se lo mettevo a fianco all'apparecchio, innescava e usciva male. E allora ho provato a fare una massa, niente da fare. Ho preso la giù vinile. Quello che volevo fare io volevo anche mettere un filo di massa. Vedi, adesso metto l'altro vicino alla destra, guarda. Va vicino alla mano, innesca. Oh, che strano. Me ne accorgo della portanza che sta, hai capito? Ehi, poi la radio è più forte. Cioè, così è più forte? Così, che così. Sì, perché poi innesca, te la tappa la radio, capito? Che strano. Vediamo, lo provo in macchina, vedete, va bene in macchina. Sì, sicuramente sì. Non hai detto, perché l'apparecchio è simile, questo è il Samurai, in macchina o il Galaxy, Super Galaxy. Quale c'è? Il Galaxy 2? No, Super Galaxy. No, non lo conosco, io conosco Galaxy 1 e Galaxy 2. Vabbè, comunque sarà più o meno... No, quello è il Kaifu, stavo sbagliando io, fra. Sbagliare anche a me. È uguale a questo, il Samurai, preciso con la macchina cromata, soltanto che dietro l'anticipatore, perché esce con, invece che con 10 esce con 20 watt. Aiuto, con questi apparecchi modificati. No. Con questi potenziometri, ciao da lì. Con questi potenziometri, boh. Il secondo parolone è un parolone che proprio. Tutta la sera non è entrato nessuno. Sono entrato poco fa, 10 minuti, adesso devo anche lasciare perché devo mangiare e poi scendere in campagna natalina. Io lo stesso ho già mangiato io, là. A proposito di mangiare, ci mi piglio la bastiglia. Ciao Gianni, anche a te. Non ho sentito nessuno stasera. Dai, ci siamo noi adesso, rimani. E adesso che è tardi. Cazzo, un paio di minuti devo chiudere, sennò chi ti dà le pomeggia. Ancora. Mi sta rompendo le scatole di nuovo. Ciao Natalino, è fatto piacere sentirti. Ciao anche a te Gianni. Ti aggiorniamo, dai. Un abbraccio a tutti e due. Avanti Gianni. Ciao fra, stammi bene, dai. Avanti Natalino. Ciao Fra, buon proseguo alle prossime, dai. Avanti già. Ehi, ehi, era stato. Io sono entrato, stavo cantando, sono entrato dopo, perché ho acceso, non c'era nessuno, quindi mi sono messo a cantare, ho detto vabbè, passerà il tempo, poi entra gente, invece non è entrato nessuno. Allora, sentivo la propagazione, c'era gente in FM che arrivava, cazzo, paurosamente forte. Ma italiani? No, propagazione era di fuori. Ah, cazzo. Lo so, anche poco fa sembrava uno splatter, invece era la propagazione. Stavano parlando in FM, infatti. Kappa. Vabbè. Che ne ha voglia di entrare. Parla d'antenna, chi su, microfoni, tutti i soldi buttati, se non entra gente se ne va. Infatti. A me mi si è rotto il commutatore d'antenna della Daiba, cazzo, mi si è rotta una letta dentro e non servi più. Ah, io commutatori l'ho usato un paio di volte e poi non ne ho più usata. Poi andava tutto in corto, cazzo, c'erano quelli della ZG, andava tutto in corto, nuovi, mi non comprati a seconda mano, comprati nuovi, aperti, controllati, andavano bene all'interno, invece andava, cazzo, sono diventato scemo, cercando il difetto, poi ho capito che cosa era, ne ho staccato il commutatore, l'ho messo diretto, e andava bene, e allora questo è il commutatore, e la storia andava bene, capito? E quelli della ZG non servono a niente, a me mi si è rotto uno della Daiba che costava un casino di soldi, e infatti posso usare solo un apparecchio, e devo cambiare apparecchio o macello? Perché un macello? Lo stacchi da uno e lo metti nell'altro, lo sai? Ma qui la storia è l'onfia per cambiare. Ah, ecco, è quello, non è Gaisu. Tu l'hai fatto in modo che andasse al commutatore, lo so. Tante volte, no, io posso in un modo sposto il mobile e ce l'ho dietro. Oggi proprio non avevo né gana. Ho sentito sul prezzo a Lucca e poi non è entrato più nessuno. Kappa. Infatti ha giudicato, mi sono bucato. Come me ne sono alzato, solo propagazione sentivo forte. A volte la gente, a volte no, è sempre stato così, sempre stata. E poi adesso è peggio perché ce n'è di meno, se non entra uno non entra manco l'altro perché non sente nessuno e se ne va. E infatti magari pensano che non c'è nessuno e se ne vanno. Che ora è? Le 7:20 sono. Adesso chiudo pure io, se no vi telefoneggia. Ci sentiamo alle prossime già, dai. Se coincide, perché se no questo telefona. Ehi, vabbè, dai. Ci sentiamo, ciao Natalia, buona serata. E altrettanto, ci sono i Pooh stasera e me li voglio guardare. Cosa c'è? I Pooh ci sono stasera su Rai 1. Mi piacciono anche a me, anche i nomadi, mi piace. Capo, vabbè, dai, ci sentiamo, ciao già. Grazie per le quattro chiacchiere, quelle per me. Ciao. Vabbè, lui, Cucca. Sembrava la portante tua, metteva la portante tu, ma non c'era nessuno. No, è un bipifone, è vero, che l'ho sentito. Sembrava tu. E allora? Per me a casa già. A casa. Sto scherzando al telefonino. Ho fatto un po' di passar brodo. Con la carne buona. Troppo mangio. L'ho già mangiato. E tu? No, io sto per uscire, mi sto per uscire con il cane perché si sta lamentando. Se metto le scarpe giù molto esco e lo porto giù. Niente, stasera non c'era nessuno qua. Mi sono messo a cantare, perché ho acceso, verso le 6 non c'era nessuno, ho preso e mi sono messo a cantare, ho fatto un paio di canzoni e poi ho riacceso e non ve la dicevo, poi è entrato Franco alla stazione, poi è entrato Natalino, ma ci sono stati poco, capito? Franco doveva andare in campagna, Natalino si doveva guardare in più. Ai. Io non c'ero, sono rientrato, allora, sono rientrato alle 4, no, sì alle 4, ho portato Andrea a fare la pipì, poi ho fatto delle cosette e sono uscito, sono andato in piazza di Italia a portare Andrea, ho fatto una passeggiata, ho trovato un amico, mi sono fatto una chiacchierata e poi ho trovato una mia amica col cagnolino, mi sono fatto una passeggiata. Luigi una mezz'oretta e poi sono andato a casa, mi sono preso il tram, mi sono potuto andare a casa. Ma hai lavorato? Lavorato no. No, pensavo avessi qualche lavoretto. Oh, yeah. Ho detto magari impegnati. No, no, praticamente domani vado a lavorare in campagna. A fare contadino? No, a fare dei lavori di tagliare erba, boh. Su vanno giù va. Sono tipo BVC, addio. Ma adesso già cosa faccio? Non ci esco ogni giorno. Perché sto facendo ogni giorno, spendo il soldi, un bel di nato. Esce solo il sabato e basta. Se no c'è un pacco di nato. Capito? Ho detto a casa, faccio i miei lavoretti, poi se ho un'uscita da fare la faccio, non è quello, ma soldi pochi. No, se non è tempo di spendere molti soldi, no? Io ogni tanto vabbè al bar ci vado, ma poco, no, non come prima, a pigliare un caffè naturalmente, non a pigliare chissà cosa, ma qualche volta ci vado, ma non più come prima, prima magari trovavo un amico, io ci bevevo un caffè, questo e quell'altro, adesso di meno, no, non ci sto più andando. Già sono così, ma su di là, sono soldi. Oggi ne abbiamo 15, che no, ancora chi tu. Gianluca un tipo, il mio barbiere è al posto caldo già, che bello, adesso mi ricordo dove. Comunque un posto caldo bellissimo. E tuo barbiere? Chi sa il cugino di lei. Bello cavolo, piscina bacca. Viaggio di nozze con la moglie. Ah. È il matrimonio che ha fatto un bombolo. Si è spogliato, cazzo, cioè, ha fatto lo striptease. Questo è il colore, fa è su un buco di grisso, non si ferma un secondo, mi cazzo, non si ferma un secondo, ma adesso Maria. No vabbè, aspetta te lo giro già, va su WhatsApp. Ci vanno il matrimonio che ha fatto lui. Adesso te l'ha già rimbagato. Il video ti ha mandato perché? Sì. Aspetta, te l'ha mandato la bella, per la bingue. A farla d'ora i giorni. Si vanno 2 secondi, sì. Cazzo. C'è un macchinetto, dici? Sì, mi veniva da Carraio, così. E a quello grosso lo stava stancando, la brigata prima faccia, cioè, si stava stancando. Lo so. Quello era agile, mi cazzo, no, la vitrai, non è a carica di muri. Abbasata. E questo video dov'è? Cosa? Questo video dov'è? Quale? Il bombolo. Ah. Io forse non ho ci rimatto, così è già. Cosa, Luca? Ma sei sposato con sopra, è possibile. Non è ci rimatto, No, matrimonio. Martedì. Adesso scusa tutto, io ne ho visto uno che ha detto che volevo andare alla scuola. Vabbè, adesso te la già rimbagato da voi. Vabbè. Per l'altro c'è un casino perché non c'è un mezzo, come trasportare le case, tutto l'impianto, come fa? Un casino per lui. Essere evidente la batteria. Noia. Cosa c'è da mangiare già? C'è pollo piccante, spaghetti di pollo piccante e poi farò un'insalata. Il primo non mi posso. Ho capito. Che sono, che avevo fatto il messaggio, la notichetta. Cioè, se lì si sta frenando, ci sono tutte le canne in calore qua vicino a casa. Sta sempre mente. Allora sì. Sì, sì. Mi dice a dolori e beh. Sì, ma è Eugenio. E te c'è un my friend, e te c'è un my friend, Italy from Sardinia. Poi Aru. Bravo, io chiudo qua perché devo andare a portare il cane che sta piangendo. Se no magari si va avvicinando. Da, ci sentiamo. Ok, ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao. Aspetta lui, allora dai, già ci va Elena a portarlo. Che va Elena a portarlo. Ok. Così almeno mi trattengo un po' di più, là. E niente. Che mi conta? Ma nulla di che già. Mi sono fatto una passeggiata, niente di speciale. Sta per bene, le macchine, guardalo. Le macchine? Sì. Che macchine? E mi dà la macchina lui. Ma faccio a spostarmi solo a piedi, già, un casino, adesso chiedo a Giuseppe, ho chiesto un amico meccanico, vediamo un po' cosa mi procura. Sono a piedi già, come faccio? Vabbè, se magari il meccanico conosce la persona, magari andava da lui a farli fare italiano, la macchina la conosce di più, certo. Ma se ce l'ho solo a piedi mi viene male adesso. Guardate, in bicicletta elettrica, le concessionarie. E adesso vediamo, dai, già ho trovato il sistema. Comunque tra le mani un Apollo. Adesso vediamo cosa dice il Paloppoli. Un Apollo? Sì, 1000 benzina, 1200. Ma chi lo vede qua per me? È della moglie, ne ha poche, chilometri. Allora già va bene, ma modello nuovo? No, modello un po' vecchiotto, non so quanti anni ha, ma è nuova, aria condizionata, siamo stereo, idroguida, c'è tutto quanto, c'ha tutto. C'è un problema lo sforzo che non crederebbe, ma quello lì c'è una cagata, vai, la carrozzina la attivi e trova il sistema. Allora Roberto te lo mette a fronte in 5 minuti. È facile. Può trasmettere le bit e regolarlo, lo vuole registrarlo. Ho capito, scusa già. E vuole solo registrarlo lo sportello. Ah sì, certo, sicuramente. Mi sa che ha preso un botto. Allora, radio, perfetta in tutte le sue parti. 360 compreso. È come 140. Da 0 a 35 kg, mega, è un po' caro, 140-360 euro. Io l'ho pagato 250 quando l'ho preso, ma 300 si può pagare, sulle 300 si può pagare, ma non di più. Io vado 350. Infatti, 350 con le MC60. Ma sono radio vecchie adesso oramai, sono già usurati tutti i componenti, da un momento all'altro ti partono, e dopo già ti racconta. Qua se mi aggiusta c'è solo Fabrizio, ma le paga solo a chi vuole lui e basta. So chi fa che vuole lui, ne fa, si fa pagare, chi vuole lui. Ciao. Non è fa lei, lo fa per cortesia, mi sono arrivato, non ne frega niente. Lo fa così. Come ha sistemato l'antenna a me, me l'ha fatto per cortesia. Se no mica. E anche a me l'ha fatto. Però non è che lui lo può fare a tutti perché c'ha impegni, c'ha altri impegni, capito? Non ce la fa fare a tutti. Non è un lavoro, per lui è un hobby. Lo so. Già lo saccio. Vabbè. Comunque, per dirti, non c'è nessuno che le aggiusta a Sassari, capito? Non c'è un tecnico che aggiusti quelle radio lì. Lo so, già lo so. Chi è? Avanti. Mirko, c'è un po' di QRM, io non è che ti capisco bene. Comunque, ho capito che è restaurato un microfono che lo stai provando. Prova a venire avanti e vediamo un pochettino se sparisce questo QRM. Tu Luca, come lo senti? Io lo sento un po' cupo. sei un po' strano. Ciao Mirko, se mi ascolti. Allora già, Sassa, il cane è squagliato e fatto a pezzi, si indaga per risalire agli autori. Sì, sì, lo so, no, l'ho visto. È un levriero, è andata anche la veterinaria per riconoscere le ossa ed è un levriero. Allucinante, non ho parole, ma dove stiamo arrivando? Dove stiamo arrivando? Mi sa che le cose stanno mettendo un po' male. La gente sta impazzendo. Ma secondo me, Gianni, la gente che ti senti fa cocaina, io ci dica davvero, fanno danni, fanno meri danni. Io praticamente ho degli amici che fanno le guardie zuffere e hanno trovato peli di cane a pedalie, da teste, sicuramente i cinesi sono fedeli di cani a russo, li sono vendendo come attaccarla. Posso immaginare. Hanno fatto anche le fotografie. Uno schifo, la gente sta facendo di testa già, lo schifo, è pazzesco. Non c'è da fidarsi, Migia, tu vedi ragazzino, lo so, è meglio evitare. Lascia un gambo e abita, chi si ormai gli piace con un gusto di busciacara. Sono tempi un po' così, capito? Meglio camminare per la sua strada e basta. Naturalmente non farsi schiacciare i piedi, quello no, però evitare. Sì, perché non vengono puniti, una volta tu li punisci, è così. Tipo quello delle ricordi, quel tipo che ha ammazzato il barista, che negava, poi la telecamera l'ha ripreso tutto. Che gli avevo dato il gasso, tu pensa che quel ragazzo lì faceva tipo non carattere, ma giudo neanche, vabbè, quel tipo di sport che picchiava, diceva solo che ha picchiato anche gente in carcere. Giugisti? No, Muay Thai. Qui quello lì, avanti Mirko! Mirko! Aspetta un attimo, già, 5 secondi arrivo. Via. Mirko! Beh, già ci sei. Ehi, allora, già ci sono qua. E Mirko? C'è un bel di QRM, sicuramente non sei. È strano, però, ho sentito l'otto da lì. Suona, mi dai già 5 minuti, 10 minuti, o devi andare? Io da nessuna parte devo andare. Ci sta andando era una porta di giudicare. Si vede che mangio qualcosa perché ho fame. A mangiare stai andando? Io mangio un po' di pasta, un po' di brodo, un pezzettino di carne, ma faccio in fretta. Proprio così, perché ci sto per riempire la saccoccia. No, io adesso vabbè vado a fare da mangiare al cane, allora se tu stai andando a mangiare faccio da mangiare al cane, così quando sale da giù è pronto tutto, capito? E no, poi vieni in radio dopo, già rimane acceso qua, se ne voglia, se non fa niente, tranquillo. Vabbè, ciao, buon appetito.